GR Europa. 60 leggi da varare, uno stato intero, la Croazia da includere, un budget miliardario da definire. Europa 2013, mai così vicina al precipizio, mai così importante, dinamica, discussa da e per tutti noi, tutti i 500 milioni di noi europei, appunto, dell'Unione. Allora, cari amici, un saluto da Gigi Donnelli. Da oggi e per i prossimi sei mesi apriamo un nuovo spazio, 180 secondi quotidiani, per raccontare l'azione del Parlamento, l'istituzione più democratica per definizione dell'Unione, quelli che rappresenta tutti. Il prossimo anno voteremo per la nona volta nella storia i parlamentari. Dal 78, quando gli stati erano 9, i deputati 410, siamo arrivati alle elezioni del 2009, 27 stati, 751 deputati. Il Parlamento è una macchina imponente, una macchina burocratica, 7.500 dipendenti, pensate ai posti di lavoro, più i deputati stessi. Ma cosa fa esattamente il Parlamento? Dove si riunisce? Che poteri ha? Insomma, quale è la cifra di questa grande assemblea, che è grande certo, ma è inutile negarlo, per la maggior parte di noi resta davvero un oggetto misterioso. Da oggi Radio 24 riprende un viaggio nelle istituzioni europee in collaborazione con la rete europea Euronet. Adesso via con le prime notizie. Il Parlamento europeo considera la criminalità organizzata come una delle principali minacce che pesano sulla sicurezza all'interno delle frontiere dell'Unione e sulla libertà dei suoi cittadini. La nostra istituzione chiede peraltro che le autorità giudiziarie investigative si vedano conferire più poteri e strumenti per lottare questa minaccia. Così il presidente del Parlamento europeo, il tedesco Martin Schulz, che ha aperto questa mattina a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, la due giorni di incontri e dibattiti dedicata al ventennale dell'uccisione di Beppe Alfano, il giornalista ucciso dalla mafia l'8 maggio 93. Li incontreremo nei prossimi giorni, ma intanto uno scatto che arriva da MEP Ranking e riguarda il tasso di partecipazione ai lavori. I 73 europarlamentari italiani sono al 24esimo posto su 28 delegazioni, infatti 27 più la Catalogna, nella classifica riguardante la presenza nelle sessioni plenarie dell'Assemblea di Strasburgo. La media delle presenti per gli italiani è comunque alta, pari all'86%, e tre deputati sono nella top 10 di chi ne fa il 100%. E sono Speroni della Lega, La Via del PDL, Zanoni dell'IDV. Al primo posto per assiduità per gli europarlamentari c'è l'Austria. Bene, con questo chiudiamo questo primo appuntamento. Lo ricordo, ritrovate tutti i contenuti come sempre su www.radio24.it. Appuntamento domani alla stessa ora. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.